superate da 6 minuti le ore 20. Vi do il benvenuto anche per questa serata. Siamo a metà settimana, oggi è il mercoledì 18 di giugno. Linea Rock su Radio Lombardia, la voce di Marco Gravelli. E come ogni mercoledì, come avevo già detto in precedenza e mantenuto queste promesse, settimana scorsa il DJ Ariele, questa sera un altro ex collega e grande amicone che ha fatto parte della storia di una radio che si chiamava Rock FM, ed è qua con noi direttamente da Chiavari, l'irruento Edo Rossi. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Garavelli! Lo sapevo, mi avevi anticipato. L'avevo promesso. Mi avevi promesso che mi cantavi il vecchio intro. E allora ci siamo, abbiamo ben 90 minuti da trascorrere insieme del buon sano rock con proposte che in parte ha scelto il valido Edo, in parte arrivano dalle news musicali che vi proporremo. Quindi direi che diamo i contatti, l'opportunità, certo, agli amici di scriverci tramite una semplice mail diretta a @radiolombardia.it, un sms 339-266-3825 e come sempre... Marco, come va con i contatti con i numeri, nuovi? Ma come tu puoi ben vedere, abbiamo, come avevamo anche dall'altra parte, sui vari vetri appiccicati i fogli con i numeri, quindi non sbaglio mai, leggo a memoria, certo, non ce l'ho ancora. Giustamente Claudia dopo 18 anni continuava a leggerli. Hai capito come funziona? Funziona così. E poi il mio saluto come sempre, quindi anche il tuo perché sei qua direttamente, certo, di fronte a me nell'altro studio, a rockfamily.it e tutti gli amici dell'Urlo Box. Io bacio lo schermo. E attenzione perché ti vedono cosa fai. Tramite il sito www.radiolombardia.it potete seguire lo streaming e potete vedere le webcam. Camera 1 e camera 2. Si parte? E allora partiamo. Rock and roll. Che dire? Che li ho persi a Verona e devo assolutamente beccarli martedì prossimo a Milano, farò di tutto per andarli a vedere. Stiamo parlando naturalmente dei Kiss, forse apriranno ancora gli show e i concerti con questa canzone o no? Bah, chi può dire, non lo so, ora chiamo Jean e glielo chiedo. Glielo chiedi, metti una buona parola. We'll be right back. Per chi non li conoscesse, questa è la formazione dei Kiss, la formazione più pittata al mondo, se non i primi, quelli più importanti e famosi con il trucco vario. E questa era Detroit Rock City. I nostri reporter che seguono, amano questa band e che li hanno visti dal vivo in quelle di Verona, li hanno seguiti anche in Olanda in un festival, quindi svelo nome, Max Deriu mi ha appena chiamato. Max, ciao Max. Un salutone, Max. Mi dice, ci vediamo allora, dopo Max. Si parte con Deuce, il concerto viene aperto con Deuce come nel famoso E Live 1, il primo live ufficiale dei Kiss. Questa invece, roviniamo qua, a che punto è l'ultima? È l'ultimo bis, ecco. Per chi vuole andare, però è l'atmosfera che conta, essere un concerto dei Kiss, è poi, un party, un happening. Poi dalla prima all'ultima, voglio dire, con tutto quello che c'è in mezzo, no, sarà sicuramente botti, ancora coriandoli che scendono, eccetera eccetera. Tra l'altro i Kiss potrebbe essere finalmente che esiste una band che potrebbe continuare avanti con il nome senza i suoi membri ufficiali, almeno questo è quello che ha dichiarato Paul Stanley qualche tempo fa, no? E invece Gene Simmons 2 giorni fa ha detto mai più un disco nuovo con materiale nuovo finché esisterà il download illegale, quindi non faranno più un disco. Vabbè, avete rotto però dai con sta roba. Tu lo conosci, lo sai come è così lui. Parli di Gene Simpatia Simmons. È legato un po' troppo al dollarone, però alla grana. A proposito di grana e di soldi, l'altro giorno parlavo di una chitarra bruciacchiata che verrà messa all'asta e si pensa di guadagnare qualcosa come 315.000 dollari, o sterline, probabilmente, perché andrà all'asta in Inghilterra. Una chitarra che il famoso, bravissimo Mancino di Seattle bruciacchiava, incendiava al termine del concerto. Tu hai già pronto? Sì, parteciperai? Sì. Beh, io ho saputo che quella da la famosa, quella di Woodstock, era arrivata a 1.200.000, una cosa del genere. Adesso è contenuta, cioè la tengono in una in un museo a Seattle, eccetera, con tanto di antifurto eccetera, esatto, una cosa del genere, insomma, la tipo comprata Seattle, ha detto questa la teniamo noi, l'abbiamo citato, mi sembra giusto ascoltarlo, anche perché questa è un'altra delle scelte della tua scaletta di questa assolutamente sera. Crosstown Traffic, Jimi Hendrix. Your back, I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just like so hard to get through to you. Crosstown Traffic, se non sbaglio, il buon Carlo Verdone è un grande amante. Assolutamente. E tu magari hai avuto modo o avevi intenzione di effettuare, di creare un programma dove potevi intervistare i VIP legati al mondo del rock. Ti ricordi? Sì, assolutamente. Non è escluso che magari diventi qualcos'altro. Magari era un programma radio, magari diventerà qualcos'altro. Va bene, allora. Però sicuramente Carlo Verdone, io ho avuto occasione di incontrarlo al volo a Sanremo e si è finiti a parlare di Hendrix subito. Infatti, cioè, il tempo mi zero, sembra che anche nelle colonne sonore dei suoi primi film infilava i brani di Ma Jimmy tipo Hendrix. Una volta è andato a fare anche un'ospitata Paperissima e ha preso aveva la batteria montata e ha fatto l'intro di I Don't Live Today di Hendrix, quindi un grande anche lui. Grazie a tutti gli amici, poi prenderemo nota e li saluteremo, perché certo, è giusto, assolutamente, coloro che stanno inviando i vari sms e le email. E intanto abbiamo un'altra grande canzone, un'altra grande band e altra grande colonna sonora, perché questa canzone è stata inserita anche quello. Questi sono gli Stones. and the Stones, naturalmente i Rolling con Gimme Shelter. Qui siamo fine anni 60, anni 70, ci siamo. Sì. Canzone tra l'altro utilizzata non solo per Shine a Light, ma anche per film di Scorsese. Utilizzava spesso Hendrix e Rolling Stone, e tra l'altro spesso anche De Niro nei suoi film cercava di inserirci gli Stones, perché è sempre stato un grande appassionato, un po' come me, insomma, abbiamo questa cosa bravo, in comune. Bravo. Questo invece me lo lasci, perché oggi, certo, 18 giugno del 1942, nasce un grande della musica, visto che abbiamo ascoltato gli Stones, non ci sono i Beatles, ma c'è Paul McCartney. Oggi è il compleanno di Paul McCartney, che ha suonato l'altro giorno a Kiev, c'erano 200.000 persone, concerto gratuito, ma 200.000 persone per un grande, è giusto. Comunque, scusa, per Kiev? 200.000 persone. Sent inside forever. Never seeing no one. Yeah. sempre in corsa, Paul McCartney non si ferma mai, non si ferma mai, anche se è proprio morto. Notizie, no, no, non è morto, dai, poveraccio. Qualcun altro dei Beatles è morto, ma non lui. Ah, okay. Però dice che tra un po' si ritira, farà l'ultimo tour e stop. Sì. Anche perché di anni ne ha accumulati, Vabbè, sì. E secondo me anche di zeri nel conto in banca. Ah, ma sempre lì vai a parare, sempre lì vai a parare. Sai com'è, ligure sono. Lo sappiamo, lo sappiamo. Allora, andiamo a ringraziare un po' di amici che hanno inviato. Certo. Email, la ricordo ancora, diretta@radiolombardia.it oppure l'SMS 339-266-3825. Allora, subito un saluto a Man on the Moon, che si trova al concerto dei Radiohead, ma ci sta ascoltando con le auricolari lì, vedi, in attesa che vedi. Inizia il concerto a Milano. Un saluto ad Andre Young, un saluto a Slan, a Lara, alla mitica Shandy, a Sergio 136 di Milano, a El Fluido che ci scrive da Ginevra e dice: Edo, potevi portare anche la chitarra? Ben volentieri, la prossima volta che mi ospiti, okay, porto la chitarra. Anche perché il buon Fabione ha portato l'armonica l'altro giorno. Ok, ok, va bene. No, allora porto la chitarra, magari porto anche un cantante, perché io ovviamente da solo non riesco a farlo. Scusa, porti quella doppia tastiera? No, dai, doppio manico. Vogliamo con la doppia. Va bene, con la doppia manica, okay. si può fare. Poi un saluto a Brutus da Genova, un saluto a Silvia, un saluto a Piero da Castel Bolognese, un saluto alla mia amica Cezchi, un saluto a Tina. Vedo che comunque ti ascoltano da parecchio, insomma, c'è parecchio streaming che lavora. Quindi qua, quello fa piacere. Mamma mia, decisamente piacere, però speriamo anche che ci siano altre città prossimamente qua della Lombardia, del Piemonte, che si facciano sentire, insomma. Se gli piace il rock che stiamo proponendo, mi sembra, in questi giorni, soprattutto anche grazie alla tua scaletta di questa sera, del buon sano rock di quello giusto. Anche la prossima band, qui siamo veramente ai top of the top. Tra l'altro, come dicevo sempre, quando c'è da trovare una playlist, è sempre difficile dover scegliere una canzone che rappresenti il gruppo. Io poi, quando mi trovo davanti alle Zeppelin, tra l'altro le Zeppelin li ho usati per chiudere di là, eccetera, quindi è sempre difficile, però questa alla fine è quella che sulla quale dico non ho mai dubbi, perché vado sicuro, insomma, vado sempre sicuro. Allora, prima di ascoltare questa bellissima Immigrant Song, c'è un giornale come lo è Rolling Stone negli States, il Mojo, che è un altro importante giornale invece inglese, ha assegnato i suoi award e miglior band dal vivo, può essere un po' paradossale, miglior band live, uno pensa sì, un tour di 300 date, esatto, no, miglior band live quest'anno Led Zeppelin, un concerto hanno fatto, uno. Sì, tra l'altro non è neanche stato il migliore della loro carriera. Poverini, stando a quello che lo sappiamo, però era l'insieme, la voglia di stare di nuovo insieme, certo, di vederli sul palco, perché molta gente non li aveva mai visti dal vivo, era dal, certo, 1980 che non suonavano più, quindi sì, infatti. E quindi si sono aggiudicati questo premio con un solo concerto, sì, anche se sì, si parla, o dicevo, l'estate prossima in tour. Sì, sì, in realtà sono tutti, io li sto seguendo abbastanza da vicino tutti questi rumors, prima è uno che smentisce, poi è l'altro che, insomma, staremo a vedere. Secondo me si farà, e pensa che l'anno prossimo in tour in estate, secondo me, ripeto, sottolineo, sì, e ti ripeto, sì, secondo me ci saranno sia i Led Zeppelin che gli AC/DC. Mamma mia. Fight the hall, sing it. Signore, abbiamo presentato i Led Zeppelin in contrapposizione, un po' come abbiamo fatto prima Rolling Stones e Paul McCartney dei Beatles. Esatto. In questo caso era giusto proporre anche i Deep Purple. E che Deep Purple, esatto, signori miei, che Deep Purple. Come fai quando pensi uno è automatico ti arriva fuori l'altro. L'altro ne parlavamo prima fuori onda, questa Perfect Stranger non è che è venuta fuori in un periodo che fosse particolarmente, sì, infatti, brillante per la carriera dei Deep Purple. Siamo nel 1984, quindi insomma, però c'era questa, c'era Knocking at Your Back Door, esatto, del disco Perfect Stranger dell'84, che poi io confesso che quest'amore, l'amore per questa canzone è piuttosto recente, colpa del loro concerto genovese. Dove tra l'altro ero lì con Max, con Mox, insomma un po' di colleghi, amici eccetera, con Filippo Rostoni che saluto, e una roba micidiale, una cartella, beh, questa e Space Tracking mi hanno tirato sulla pelle. Hanno ucciso, eh? Sì, perché molto spesso le sorprese ti arrivano dalle canzoni, cioè Smoke on the Water, facile, cioè invece Child in Time, ok, pelle d'oca, scontate, però dici. Esatto, da quelle che magari te l'aspetti un po' meno ti picchiano un po' più sulle, no? Giusto. Allora, sì, sappiamo che tu, come abbiamo detto prima, salva qualcuno tutti, l'ha capito. Ehi, salva tutti, sono Edo Rossi. Edo Rossi suona la chitarra, si diletta con varie band. Quanti gruppi suoni? Tre, se non sbaglio. Sì, al momento, sì, se consideriamo la Rock Family All Stars Band, un progetto, una band. Potrebbero, sì, essere quattro formazioni. Esatto, poi ci sono Rockpit, gli Acamporas e i New Acamporas, con i quali abbiamo registrato materiale nuovo, adesso lo mettiamo su MySpace al più presto. Ti piace fare anche l'autore, quindi scribacchi. Sì. E questo ti porta la penna a scrivere anche un libro. Sì, sì. È una, sì, tua autobiografia? No, cioè, no. Mi devo spaventare o di che cosa si tratta? No, assolutamente. Il libro in realtà è un è nato nel 1998, quando Silvio Pellico. Esatto, no, perché e tra l'altro le prime cose sono state proprio scritte a penna su un quaderno. Perché ero in un periodo nel quale non stavo facendo niente, ero a metà tra il servizio militare e l'inizio del lavoro serio, diciamo, e facevo il DJ eccetera e mettevo i dischi al DLF, all'ex DLF, al Boago a Genova, e lì passavano un sacco di musicisti, artisti, ho conosciuto un sacco di gente. Una persona mi ha spinto a dire: ma senti, ma perché tu non sfrutti tutta la tua la passione per la musica per fare un libro? Io ho detto: perché io non leggo libri e non ne ho la più pallida idea di che cosa voglia dire scrivere un libro. Allora ci ho pensato un attimo, poi ho detto: ok, faccio un libro che piaccia a me, che leggerò io almeno. E allora ho raccolto una serie di interviste a musicisti della scena italiana, aiutato anche dal fatto che mi passavano davanti lì nel locale, e cercando di prendere un po' tutto lo stivale, mi sono fatto raccontare loro come hanno fatto a uscire dalla cantina e riuscire a calcare palchi in Italia, tra l'altro riuscendo ad avere una certa credibilità. In pratica andrai a narrare tramite le loro voci dirette, esatto, tu fai un reportage di, esatto, quello che ti dicono, esatto, loro, l'excursus di una band proprio dalla esatto, classica stanzina dove iniziano a provare ai palchi. Anzi, in realtà non dall'inizio della band, ma dall'inizio delle band precedenti, cioè loro mi racconteranno proprio il loro, mi hanno raccontato dei loro gruppi del liceo, di cose di questo buttami tipo. Buttami qualche nome di chi possiamo trovare la, certo, storia? Assolutamente, Subsonica, Blue Vertigo, Timoria, piuttosto che Sud Sound System, Apre la Class, Daniele Silvestri, quindi Carmen Consoli, Raiz. Esattamente tutta la scena delle varie, una volta, esatto, cosiddetta indie alternative italiana. Sì, sì, assolutamente. Poi ci saranno un paio di interviste, tra l'altro super, una è quella di Fricantoni, l'altra quella di Gianni Morocolo. Le considero super perché sono artisti che ovviamente hanno una storia più radicata, dove mi parlano anche del periodo precedente. Che ne so, un'altra intervista super la considero quella di Davide Toffolo dei Tre Ragazzi Morti, che mi ha parlato in modo molto approfondito del Great Complotto, il periodo tra virgolette punk alternativo di Pordenone, insomma, eccetera, cose di questo tipo. Insomma, quando radiografia dell'Italia del rock. Quanto tempo passerà per trovarlo nelle librerie, stando, o nelle edicole eccetera? Stando a Cinaschi Edizione, con la quale pubblicheremo questo libro, dovremmo uscire a settembre, si chiamerà Percorsi Indipendenti. Oh, perfetto. Se ce la facciamo, allora foto inedite dentro, fatte all'epoca da un amico fotografo che me le fa avere, e probabilmente, se riusciamo, perché ovviamente la cosa tecnicamente richiede molti sforzi, ci sarà anche un CD allegato. Vediamo. Benissimo. Un po'. Allora, una delle tue passioni, uno dei tuoi amori a livello musicale, so benissimo che è la prossima band. Assolutamente. you like it well, but surely your time will come, as in heaven, as in hell. Però vedo che molti in streaming dalla Liguria questa sera ci stanno seguendo. Sì, è già arrivata una... Attenzione, arriva addirittura. Ok. Scusa, dillo con parole tue, non abbiamo capito nulla. No, perché arrivano parecchi Belin, quindi sono contento. Belin Belandi, ho capito. Esatto, va bene, va bene, va bene. Questa è stata una delle tue band che ti ha avvicinato, appassionato, perché suonavi proprio in una tribute band dei Clash. In realtà, sì, io come molti di quelli che in realtà hanno suonato all'interno di una tribute band dei Clash, subito non eravamo convinti che la tribute band fosse una cosa da fare. Poi però quando ci è stata proposta, ed è stata una delle poche band che non ho cominciato io, mi è stato proposto pensare di andare a suonare i Clash, ho detto cioè è una cosa straordinaria andare a suonare i Clash. E se ti proponessero di suonare in una tribute band dei Carbon Silicon con Mick Jones, che mi diresti? Guarda, sarei contento di suonare con Mick Jones, ma questo disco non ti piace molto? Non mi ha fatto impazzire. Ma Mick Jones è poi un ex Generation X. E anche un ex Big Audio Dynamite. Esatto, quindi... con il batterista dei Riff. Alla fin fine il progettino non è male. No, musica completamente differente, però piacevole, estiva, quindi questa è la nuova canzone dei Carbon Silicon. Now when I talk to God, I need you to understand. He said, stick by me, I'll be your guiding hand. I like to ask if I may presume love and direct from my living room. As we bend down to pray, and ask, there a better way? He made the world, made the day and night. Are we all gone crazy, what did men fight? If you make the mountains and the sea, now can you show a better way to be? Now, when I talk to God, I need you to understand. Devo dire in effetti che un po' di Big Audio Dynamite li ritrovo in questi suoni, in questi suoni dei Carbon Silicon, progetto particolare. Del resto i Clash non si possono più riformare, ok? Ovviamente. E ognuno continua per la sua strada. Anche noi tra poco ritorneremo con voi con un altro classicone di quelli tosti, che poi vi spiego qualcosa su questa canzone che il buon Edo ha scoperto da poco. Mississippi Queen, The Mountain, tra breve in Linea Rock su Radio con Lombardia. Caravelli! Bang! Questa è stata una grande band, chitarrista, un po' sovrappeso, più di noi, che è Leslie West, grandissimo chitarrista ciccione, come dico io, ma bravissimo. Poi c'era Felix Pappalardi, insomma un grande gruppo degli anni 70, e qui trasuda proprio il rock 70s in questa band, Mountain. Sì, una band che tra l'altro io ho scoperto grazie alla rotazione dei brani. Mi sono trovato una canzone in scaletta, ho detto aspetta, fa un po' sentire questa, sono impazzito, e ho scoperto che Leslie West è stato il produttore dei Cream. Esatto. E che i Mountain addirittura erano una di quelle band outsider che suonò a Woodstock addirittura. Pensa a te cosa mi ero perso. Sono diventato un fan sfegatato. E ho scoperto anche che sia Zakk Wylde sia Ozzy, poi nel disco Undercover, questa canzone la conoscevano molto bene. È un classicone degli anni 70. Infatti, ma pensa ma a te. Non è mai troppo tardi. Assolutamente. Invece la prossima la conosci bene, quella che ci porterà alle 21. Cosa c'è? Keep your hands to yourself. Mamma mia, rock and roll. Sì, questa è una band misconosciuta, diciamo, da noi in Europa. Sì, Georgia Satellites, che non esistono più. Ho fatto tre dischi. Un po' di Southern Rock e un po' di rock and roll miscelati insieme. Però questo è stato un grande pezzo per le classifiche americane. Sì, poi in realtà il chitarrista dei Georgia Satellite è andato a suonare nel disco con Izzy Stradlin, e poi hanno fatto delle piccole cose, però era molto divertente. Era un periodo nel quale ero molto attento al sound americano e Georgia ti piaceva. Sì, l'ascoltiamo. È andato fuori di testa. Ogni tanto succede, siamo dal vivo, certo, dici, live and direct. Vedo scritto keep your hands to yourself, però no, non la suona. Oh, no, non gli piace. Non gli sai piace. Che al computer non piace questa canzone? Anzi, me la mette in controfase. Senti questo effetto. In controfase, attenzione. Voce in fase. Controfase. E quindi questa canzone purtroppo la dobbiamo cestinare. Capita. Andiamo allora a vediamo un po' l'orario. Fermiamo perché rispettiamo le tabelle di marcia. Certo. Senti, io ne approfitterei visto che abbiamo questi due minuti che ci concedono i Georgia Satellite per salutare un po' di personaggi che ci hanno scritto. Andiamo. Allora, saluto Dan che ringrazia e saluta per la scaletta. Grazie mille, un saluto a Cri, un saluto a Ste73. Un saluto che dice sento respiro un po' di aria di casa con voi, grazie Ste. Un saluto a Bonnie, un abbraccio, un saluto a Rasoma che dice Marco, ma chi ha in studio Frankie I Energy? Vuoi spiegargli che no, non è Frankie, era una battuta ironica. Non faccio la ironica. Mia cosa nella casa, no, faccio tranquillo, vedere. Era ironica. Poi saluto a Lucido, un saluto a Rock in Progress, un saluto a Giovanni, ad Antlon il signor rockfamily.it, poi un saluto a Filippo, un saluto a Mick, un saluto a Fabio Dalbissola, un saluto a Roccia, Lillo, Paolo D'Asena e Matteo, anche loro tutti insomma apprezzano il tipo di sound che stiamo trasmettendo. Questa è Linea Rock con Marco Garavelli tutti i giorni dalle 20 alle 21.30 su Radio Lombardia. Dottore, ho fatto un... She said, don't give me no lines and keep your hands to yourself. Keep your hands to yourself. keep your hands to yourself. Ce l'abbiamo fatta, keep your hands to yourself, Georgia Satellites, questo è Rock and Roll, lo state seguendo, ascoltando in questa fase finale, ma tranquilli, abbiamo almeno un'altra ventina di minuti per l'appuntamento di Linea Rock su Radio Lombardia, il mercoledì con ospiti, e ospiti piacevolissimi, esatto. Spero anche per voi, Marco Gravelli, Edo Rossi. E Ale, allora, io volevo fare un saluto velocissimo a tutta la famiglia, ossia a rockfamily.it, il sito sul quale, la piattaforma sulla quale noi ex collega, una vecchia compagnia di amici, ci siamo come dire, ci stiamo ancora ritrovando, c'è un sacco di gente connessa. Un saluto velocissimo a Tina, a Davide 74, a Firlo 87, a Spizza, a Bea, a Gdio a 104.5, al Pistola e un sacco d'altri che stanno scrivendo. E poi Marco, allora, questa è una radio, giustamente. Ora il fatto, che, ora, il fatto che c'è la webcam, diglielo un po' tu, Marco, per piacere. No, dunque, il discorso è che non siamo in televisione, esatto, assolutamente. Ora, sulla webcam, ho messo su un chilo, eh sì, ho smesso di fumare, sai, mangiucchi un po' di più. Non abbiamo il truccatore o la truccatrice, esatto. Non c'è chi ci asciuga la fronte dal sudore, esatto, non c'è il fisioterapista, quindi alla fin fine siamo davanti a un microfono, esatto. La radio è bella perché si, esatto, ascolta e si immagina il personaggio che c'è dall'altra parte. Anzi, guardoni, guardate, ecco, altrove. Il fatto che la tecnologia attuale ti permette di andare su internet, in questo caso di ascoltarci in streaming, va bene, ma che ci siano anche le webcam che possono vedere, guarda, hai le scarpe di ieri sera, no? La maglietta, no? C'è questa macchioline, eccetera eccetera. Avviso la Claudia su questo. Attenzione. Ma guarda che se glielo dici, la Claudia arriverà qua, si truccherà alla grandissima e farà una scena terrificante. Pensi che non sia così? Sarà sicuramente. Sarà sicuramente così. Il prossimo personaggio. Torniamo al nostro rock and roll. Esatto. Mm. Il prossimo personaggio? Beh, il prossimo personaggio è in assoluto uno dei miei punti di riferimento assoluto per quanto riguarda la chitarra. E io ho iniziato letteralmente ascoltare, cioè in realtà per me il rock and roll è cominciato quando mi hanno fatto ascoltare Appetite for Destruction, Guns N' Roses, esatto, e inevitabilmente trovando grosso fascino per lo strumento chitarra, anche se ti confesso che il primo strumento che veramente mi ha colpito è stato il basso, perché venendo dagli anni 80, ascoltando la musica anni 80 eccetera, non avevo capito l'esistenza di basso, batteria, chitarra e così di questo tipo, e allora il basso era uno strumento che mi aveva colpito. Poi ho visto la chitarra, ho visto sto riccioluto che viaggiava, dai, due corde in più, metteva sì, da usare in un modo un pochino più complicato, esatto, anche se suonare bene uno strumento è sempre una cosa particolare. E da lì non credevo che mi sarei affezionato così tanto a lui, e invece così poi è stato nel corso degli anni, scoprendo anche grazie a lui Jimmy Page e poi tutto lo stile chitarristico che amavo. Abbiamo parlato quindi dei Guns N' Roses, il chitarrista primario dei Guns N' Roses era Slash ora nei Velvet Revolver, esatto, e poi in futuro chi lo sa, in Vasco Rossi, il nuovo singolo di Vasco, sì, suona lui. Ha fatto sta roba, in realtà sì, è come Van Halen al tempo con Michael Jackson, stessa cosa. Anche, tra l'altro anche Slash sono con Michael Jackson, quindi alla fin fine se sei bravo ti chiamano anche gli altri, eh? Sì sì, beh, spero che chiamino anche me allora, allora per darmi la metà di quello che è andata a Slash, che devi andare ancora un po' a lezione, eh? Esatto. tanta carica, tanta energia, nelle note delle canzoni dei Guns N' Roses una volta, del gruppo di Slash, Snake Pit. Bello questo pezzo, bello. Ma bello. Assolutamente, Been There Lately era il disco che aprì, era la canzone che apriva questo secondo disco degli Snake Pit. Nuovo cantante, in realtà un po' di rimaneggiamento nella formazione. Nel primo disco c'era ancora Gilby Clark, che Slash si era portato dietro dai Guns N' Roses. In questo disco invece suonò Kirk Kelly, invece, lanciandola alla stragrande, e quindi tutti poterono scoprire le grandi qualità di Kirk Kelly, che non dimentichiamo adesso è che ora con Alice Cooper è diventato chitarrista ufficiale di Alice Cooper, insomma un disco che tra l'altro lanciò anche il cantante Rod Jackson, che aveva mostrato, guarda, la cosa pazzesca è stata che il rumore, che voglio dire non è una rivista che in grado, spieghiamolo magari, non tutti sanno, è un magazine appunto specializzato, esatto, in rock alternativo, che certamente non parla volentieri di gruppi hard rock sul stile dei Guns N' Roses. Lessi una recensione su questo disco degli Snake Pit e dissero: vabbè, ok, ci sono le chitarre dei Guns N' Roses alla Slash, ma quel cantante lì che carica ha? Purtroppo aveva secondo me un difetto, il fatto che era un fottuto cazzone, e quindi si è perso nella strada del rock and roll con gli come molti stravizi. Purtroppo esatto. Qualcuno di loro si è un po' perso, il prossimo gruppo qualcuno sì. A proposito di cantante, lui è sì un vero ciccione in questo periodo e non ha più l'ugola di una volta, stiamo parlando dei Motley Crue, però il pezzo nuovo non è male, non è male, secondo ascoltandolo me più di una volta entra in mente, c'è del buon rock and roll. Saints of Los Angeles. Just waiting till we go. It's down in flames. We are the saints. We Love It No More. Questi sono i grandi Whitesnake. Si parlava di serpenti in precedenza. Guarda casa, ricorrono i nomi a volte nelle band. Dopo Snake Pit abbiamo appunto Whitesnake, il serpente bianco, con David Coverdale in tour in questo periodo. Arriveranno poi anche a luglio, se non sbaglio, in Italia con Europe e Tiger Tales. Questa è la versione 23. Che preferisco. Sì, nel Veneto. E questa è la versione che preferisco rispetto all'altra. Bella anche quella, chitarristi differenti, però questa rimane nel mio cuore. Invece, caro Edo, visto che siamo quasi agli sgoccioli, però oltre a scrivere il libro, ogni tanto qualche DJ set ce lo piazzi. Ah, assolutamente, assolutamente. Sì. Anzi, ne approfitto per invitare tutti i familiari di Rock Family, piuttosto che tutti gli ascoltatori di Radio Lombardia, ammesso che abbiano voglia di prendersi magari l'auto e farsi un po' di viaggio, a Gello, in provincia di Pisa. All'uscita a Pontedera c'è un locale che si chiama Area Gens, dove tra l'altro siamo di casa noi, anche il buon Marco ogni tanto e la Claudia capita da quelle parti. Io sarò lì sabato 28 a miscelare un po' di rock and roll per fare festa tutti insieme. Insomma, siamo lì, dove tra l'altro abbiamo già avuto modo di suonare anche con la band, eccetera. Insomma, saremo lì con un DJ. Ultimi minuti anche per i vostri contatti, se volete, naturalmente, con un SMS 339-266-3825 e con una mail diretta chiocciola Radio Lombardia. Radio.it. Esatto, anche un paio di nomi da salutare. Sì, sì, anche un saluto, anche lo dovevo fare a Cisco e anche a chi mi chiedeva se sabato sarò in giro per i vicoli di Genova a ubriacarmi con i ragazzi della famiglia. No, ragazzi, mi spiace, sabato ho altri impegni, però insomma una comunione. Sì, no, spero al più presto di poter buttarmi in quel di Genova e far festa con voi. Insomma. Poche settimane fa hai avuto modo di intervistarlo telefonicamente. Ormai è un tuo amico. Ormai anche perché lui continuava a dire alright, my friend. Allora se siamo amici. Se sei amico, sei amico. Vabbè, non è male avere come amico un altro grande pezzo da 90 per il rock. Glenn Hughes, questa è la nuova Love Communion. Wanna get inside your head, yeah, oh no. It's time to grow. We gotta try to justify the secret testament. I got to vent. Peace, we can live inside the garden of your life. It sure feels right. Can't you see that life's not jaded? Never been so elevated. That is where I want to be. Share that love communion in my mind. Don't you wanna get back to the grind? Share that love communion in my soul. Only takes a second, I've been told. Just share that love communion. Time, I've been keeping time for visualizing. Never been so elevated. Underneath the willow tree, that is where I want to be. Share that love communion in my mind. Don't you wanna get back to the grind? Share that love communion in my soul. All it takes is a second, I've been told. Just share that love communion. Un grande mix tra funk e rock. Quando uno sta a suonare queste cose gli vengono nature, eh? Porca miseria, veramente un gran bel lavoro, che è il nuovo di Glenn Hughes, che tra l'altro ha un titolo lunghissimo, però le iniziali del titolo sono funk. Questa è la musica che sentite nell'album funk. Bene, allora purtroppo bene, che bene male. Parentesi, il disco precedente di Glenn Hughes secondo me è uno dei più sottovalutati in assoluto, perché era bellissimo. Dove tra l'altro collaborava già con Chad Smith, come sta facendo in questo disco il batterista dei Red Hot Chili Peppers, che in quanto a funk non glielo mena nessuno. No, assolutamente. E siamo alla fine, caro Edo. Finite, volata via. Mamma mia. 90 minuti volano. Porca quindi... miseria. Vabbè, dai. Non ci sono i supplementari, rigori. Il calcio in altre situazioni. Senti, velocissimo. La comunicazione di servizio fatta da Roccia. A chi interessa, Glenn Hughes sarà al Frogstock di Riolo Terme in provincia di Ravenna il 31 di agosto. Andatelo a vedere se potete, perché lui il mio amico. E salutatemelo. Anche se magari vado. Io saluto te, saluto tutti gli amici che hanno seguito la nostra diretta di questa sera dal vivo. Eravamo proprio dal vivo con tutti i problemini tecnici. Quindi dal vivo. Siamo vivi. Questa è la mia pancia. Io vi do l'appuntamento per adesso sulla rete, su magari il mio, naturalmente su Rock Family, ma anche sul mio blog edorossi.blogspot.com, oppure sui vari palchi che calcherò con le mie con band, tutte le tue con DJ band, set, esatto. Eccetera. Io Marco volevo ringraziarti per averci ospitato qui e magari ci vediamo la prossima volta. Esatto. E come no? Ok, grazie. Lasciamo il tutto con questa bella canzone. A domani, ciao. From the mouths of decadence, but I can't feed on the powerless when my cup's already overfilled. Yeah, but it's on the table, the fire's cooking. And the fall.